pezzo di merda, va. Comunque ce l'ho qua vicino io, ecco, perché stamattina stavo parlando con Luigi, a me telefono che tra me e lui, staccavo il PL, scegliamo che rimane fa 9:30. E allora ce l'hai vicino. E infatti sto pensando una persona che abita qui giù. Avanti, venario, show, qua il cambio! Venario! Alla grande, ma è vicino a te, allo stesso tuo segnato. Allora,